mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Eccola in diretta la cantante, che ci dici di Alexanderplatz? Che è una piazza bellissima, ora, so che altro dirvi, della canzone so poco, della piazza so che sembra in un paese italiano, tutti italiani stanno tutti intorno o all'orologio del tempo, del mondo, oppure intorno alla fontana dell'amicizia tra i popoli. Tutto qua. Va bene, allora noi ti ringraziamo e diciamo che sei la nostra Roscia Milvao preferita. Va bene, vai. Ciao. Lungo i viali. E mi piaceva spolverare, fare i letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film. Ti aspetto all'angolo come Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Allora, adesso invece ascoltiamo un gruppo italiano che parla di Berlino, sono i Ministri, cantanti impegnati, hanno scritto canzoni come Diritto al tetto, La faccia di Briatore, insomma sempre con il loro tono molto polemico. Adesso ascoltiamo Berlino 3, che è una canzone proprio che ci fa capire come a volte certe città europee potrebbero essere la scappatoia verso questo nulla cosmico che succede in Italia. Si confesserà, si confesserà. questa isola di santi e tu non hai più senso quando è sera. Ecco qui, e adesso vi volevo insomma raccontare un po' di questo film bellissimo che ho visto, che si chiama Berlin Calling, che è un film del 2008, che è diretto da Storn ed è interpretato da Paul Kalkbrenner, che è un DJ molto famoso. Insomma, questo film è diventato un culto soprattutto per la sua colonna sonora, e racconta della Berlino contemporanea e insomma dell'ambiente della musica elettronica. Il film racconta di questa storia di DJ Icarus, che è appunto interpretata da Paul Kalkbrenner, che insomma dopo aver raggiunto la fama internazionale grazie ai suoi CD ha un periodo di crisi dovuto un po' alla droga. La cosa più bella è che lui insomma in questo film c'è il suo percorso di vita, la disintossicazione, che poi insomma non è mai completa, riesce a superare insomma questo periodo tramite la musica, tramite il suo amore per la musica. E adesso vi volevo far sentire questa canzone che si chiama Revolt, che praticamente dove c'è una scena bellissima del film, dove lui è rinchiuso in questa sorta di pensione, si rinchiude in questa camera mettendo la musica a palla e lì si esprime in tutta la sua passione. A voi Revolt di Paul Kalkbrenner. Di Bertolt Brecht. Ci impegniamo, noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto né chi sta in basso, né chi crede né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che gli altri si impegnano per noi, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna, senza condannare chi non si impegna, senza cercare perché non si impegna. Se qualche cosa sentiamo di potere, e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci facciamo nuovi, ma imbarbarisce se scateniamo la belva che c'è in ognuno di noi. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, una ragione che non sia una delle tante ragioni che bene conosciamo e che non ci prendono il cuore. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo. Bertolt Brecht. Siehst du, wie die Bronx unsere Heimaterde dort, wo die Straße eine Biege macht nach Ost, Schwalben gleich im Tiefflug links und rechts im großen Loch entfliehen. Wer den deutschen Tiefbau kennt, kann nicht die Frechheit übersehen, mit der die Lüge sich hier eine Schneise fräst. Sag, dass ich mich irre und ich weiß, auf wessen Seite du jetzt stehst. Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten und zwei schauen ihn beim Halten zu. Warum hält der Zeitungsmann die Finger so gekrümmt, wenn er mir die Zigarettenschachtel gibt? Und wie viele seiner Witze macht er immer nur bei mir? Was weiß er, was ich nicht weiß, und was gibt man ihm dafür, dass er mich pünktlich jeden Morgen deprimiert? Sagt, dass ich verrückt bin und ich schwör dir, du kriegst eine gespielt. Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält die Spaten und zwei schon ihm beim Halten zu. Postmann mach ich nicht mal mehr im Bademantel auf, seit ich weiß, dass er für alle spioniert. Die wissen wollen, was mich in meinem Leben so verdammt zufrieden macht. Und jetzt versucht er's auf die harte Tour und wirft die Briefe nur noch, nachdem er sie gelesen hat, ins Klo. Ich kann dir das beweisen, ich hab sie noch alle irgendwo. Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält die Spaten und zwei schon ihm beim Halten. Sowieso die Allerschlimmste bist, das weiß ich auch ohne, dass du weinst. Deine Tränen sind noch einmal richtig Öl im Feuer meiner Wut. Wer immer dich geschickt hat, sag ihm, es ist nicht so klug, wenn sich ein Team von Kumpel Arbeit sei vertragt. Sag, dass ich bekloppt bin, aber sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Finger weg von meiner Paranoia. Die war mir immer lieb und teuer. Und ich ließ sie mich so kalt im Stich wie du. E allora adesso invece ascoltiamo una canzone di Fabrizio De André del 1991 e si chiama La Domenica delle Salme. Questa canzone fa parte di un album che è Nuvole e con questa canzone De André racconta il dopo insomma, il muro di Berlino, racconta del appunto di quello che succede con la normalizzazione che c'è stata, parla di una democrazia, una finta democrazia, forse molto più capitalista. Anzi proprio la vittoria del capitalismo e quindi non più un'altra soluzione, un'alternativa, qual era quella del socialismo, comunque del comunismo. Quindi questa canzone in maniera molto ironica e anche il video è particolare perché assembla immagini molto provocatorie e molto forti, riesce a raccontarci appunto questa normalizzazione che noi viviamo tranquillamente nella società di oggi senza neanche riflettere. E soprattutto è proprio profetico perché effettivamente l'immobilismo che racconta lo rivediamo in questi giorni. Insomma, una delle canzoni forse più complicate di De André è La Domenica delle Salme. Tento la fuga entrambi verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata, dove galleggiava Milano, non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadini. Gli incendiarono il letto, sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba, un petti rosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto affollarono i parrucchieri. Nell'assolata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che il primo si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e l'illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile. Perché avevamo un cannone nel cortile, un cannone nel cortile. La domenica delle salme nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. la domenica dell'esame si sentiva cantare. E adesso sentiremo Live in Panco dei CCCCP, uno dei maggiori gruppi punk italiani, formatisi nel 1982 a Berlino e sciolti nel 1990 in Italia. Questo è un album live che è stato pubblicato 6 anni dopo lo scioglimento del gruppo, e Panco in realtà è un gioco di parole perché in realtà indica il quartiere berlinese della DDR. E questo è, diciamo, possiamo dire che è l'album che raccoglie l'anima politicizzata del gruppo e sembra una risposta al discorso di Kennedy a Berlino. Live in Panko. Non so se siete d'accordo anche voi, ma noi vogliamo anche noi un piano quinquennale per la stabilità. La prossima canzone è dei Kraftwerk. Kraftwerk, nati nel 1970, e sono considerati i padri della musica elettronica leggera. E sentiamo Computer Welt dall'omonimo album dell'81, canzone e album che sono stati tradotti addirittura in 4 lingue, tedesco, inglese, giapponese e francese. Ovviamente sentiamo la versione in tedesco che ci piace un po' di più. E questa canzone è molto importante perché comunque già nell'81 si parlava di controllo dei dati e delle memorie, e della memoria del computer da parte di varie entità, tra cui dalla Deutsche Bank all'FBI, quindi è abbastanza interessante da questo punto di vista e quindi è abbastanza innovativa appunto per essere stata scritta nell'81. das BKA haben unsere Daten da. Telespiel leiten heute die Zukunft ein. Computer für den kleinen Betrieb, Computer für das Eigenheim. Reisen, Schreiben, Medizin, Unterhaltung. Reisen, Schreiben, Medizin, Unterhaltung. Ora ascoltiamo un album, non un album, scusate, una canzone dall'album Berlin di Lou Reed. Oh Jim, how could you treat me this way? Hey, hey, hey, how'd you treat me this way? Oh Jim, could you treat me this way? Hey, hey, how'd you treat me this way? You know you broke my heart ever since you went away. Now you said that you loved us, but you only made love to one of us. Oh, Jim, how could you treat me this way? You know you broke my heart ever since you went away. When you're looking through the eyes of faith, ooh, ooh, ooh. When you're looking through the eyes of faith, ooh, ooh, ooh. When you're looking through the eyes of faith, when you're looking through the eyes of hate. Adesso sentiamo una canzone di Nina Hagen, un brano ancora popolare in tutta la Germania, che è Du hast den Farfin vergessen, cioè hai dimenticato di prendere il rullino a colori, che è un po' un testo scherzoso, anche in realtà riferito alla DDR, che infatti Nina Hagen ha poi abbandonato. E quindi sentiamo la canzone, che è anche della colonna sonora del film Sonnenallee, che è molto interessante perché comunque parla appunto della DDR e della vita a ridosso del muro. Ma quante ne sa? Thank you. Freundschaft ist auch da, ja. Aber wie schrecklich, die Tränen kullern heiß. Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß. Micha, mein Micha, und alles tut so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich steh. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön dir war. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr. Adesso parliamo di Westbam, DJ Westbam, che il cui vero nome è Maximilian Lenz, che è nato a Münster ed è un famoso DJ. Inizia il suo pseudonimo è un omaggio ad Africa Bambaata. E inizio la sua carriera inizio nell'83 a Münster, nella città natale. In seguito si trasferisce a Berlino. Ha suonato in occasione della prima Love Parade Rave Party nell'89 presso Q-Damm di Berlino. In quel periodo la cultura DJ ha fatto un passo avanti in Germania e dopo diversi record esce il suo primo album chiamato Il Consiglio dei Ministri e nel 91 ha organizzato il primo May Day Rave a Berlino con più di 5.000 persone ed è stata la più grande festa techno in Germania. Da allora la May Day è stata fondamentale per la scena techno tedesca. Westbam è ancora l'organizzatore principale ed è anche una parte dei membri della May Day ed è il produttore della May Day Atoms. E adesso a voi di DJ Westbam, Members of May Day. Bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce Allora, adesso, visto in tema di May Day, quindi di primo maggio, non possiamo non parlare di Kreuzberg, che è appunto il quartiere in cui famoso in Berlino per essere il quartiere degli scontri del primo maggio. E quindi sentiamo una canzone cantata da Franca Potente, contenuta nella soundtrack di Lola Corre, che appunto Lola corre attraverso tutto il quartiere di Kreuzberg e tutta Berlino. Ich würde dich sterben lassen. I don't believe in trouble, I don't believe in pain, I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise, I don't believe in chance, I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, for silence seems as well. I don't believe in energy, if tension is too low. I don't believe in panic, I don't believe in fear, I don't believe in prophecies that don't bring any tears. Reality will be the way it should. But I believe in fantasy, the future's understood. I don't believe in history, I don't believe in truth. I don't believe there's destiny, it's someone to accuse. Adesso una poesia di Rainer Maria Rilke. Dimmi qual è il tuo compito, poeta. Io celebro, ma il mostruoso e il micidiale, come lo accetti, come lo sopporti? Io celebro, ma il senza nome, ma l'anonimo, che poeta tuttavia lo nomini? Io celebro. Donde tra il tuo diritto d'esser vero, in ogni maschera, in ogni costume? Io celebro. E come può la quiete ed il furore conoscerti, la quiete e la tempesta? Perché io celebro. Adesso un piccolo passo sempre di questo poeta sulle donne. Un giorno esisterà la fanciulla e la donna, il cui nome non significherà più soltanto un contrapposto al maschile, ma qualcosa per sé, qualcosa per cui non si penserà a completamento e confine, ma solo a vita reale, l'umanità femminile. Questo progresso trasformerà l'esperienza dell'amore, che ora è piena d'errore, la muterà dal fondo, la riplasmerà in una relazione da essere umano a essere umano, non più da maschio a femmina. E questo più umano amore somiglierà a quello che noi faticosamente prepariamo, all'amore che in questo consiste, che due solitudini si custodiscano, delimitino e si salutino a vicenda. E adesso, dopo questo momento serio, invece passiamo a un'altra canzone che è dei Vizzo, si chiama... Dedichiamo alla nostra amica Janet e si chiama Pippi Langstrump. E prima di questo volevamo dire una cosa, in maniera proprio come messaggio subliminale, volevamo dire Rex, cane di merda! Comunque Rex è di Vienna, non di Berlino. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Ed ora parliamo di... Ed ora leggiamo una poesia di Brecht, che è uno dei più famosi drammaturghi tedeschi e che è morto a Berlino, ha vissuto a Berlino per lungo tempo. Veramente vivo in tempi bui. La parola disinvolta è folle. Una fronte liscia indica insensibilità. Colui che ride probabilmente non ha ancora ricevuto la terribile notizia. Che tempi sono questi in cui un discorso sugli alberi è quasi un reato perché comprende il tacere su così tanti crimini? Quello lì che sta tranquillamente attraversando la strada forse non è più raggiungibile per i suoi amici che soffrono. È vero, mi guadagno ancora da vivere, ma credetemi, è un puro caso. Niente di ciò che faccio mi dà il diritto di saziarmi. Per caso sono stato risparmiato. Quando cessa la mia fortuna sono perso. Mi dicono mangia e bevi, accontentati perché hai, ma come posso mangiare e bere se ciò che mangio lo strappo a chi ha fame, il mio bicchiere d'acqua manca a chi muore di sete, eppure mangio e bevo. Mi piacerebbe anche essere saggio. Nei vecchi libri scrivono cosa vuol dire saggio, tenersi fuori da guai del mondo e passare il breve periodo senza paura. Anche fare a meno della violenza, ripagare il male con il bene, non esaudire i propri desideri ma dimenticare questo è ritenuto saggio. Tutto questo non mi riesce, veramente vivo in tempi bui. Voi che emergete dalla marea nella quale noi siamo annegati, ricordate, quando parlate delle nostre debolezze, anche i tempi bui ai quali voi siete scampati. Camminavamo, cambiando più spesso i paesi delle scarpe, attraverso le guerre delle classi, disperati, quando c'era solo ingiustizia e nessuna rivolta. Eppure sappiamo, anche l'odio verso la bassezza distorce i tratti del viso. Anche l'ira per le ingiustizie rende la voce rauca. Ah, noi che volevamo preparare il terreno per la gentilezza, noi non potevamo essere gentili. Ma voi, quando sarà venuto il momento in cui l'uomo è amico dell'uomo, ricordate noi con indulgenza. Phantom, autonome Reaktion, autonom, nicht synchron, autonomer Mikrofon, wieso schon? Wie's läuft, oder bist du noch betäubt? Komm, steh auf, mach dich raus und mach das Beste draus. Na, wie sieht's denn aus? Autonomes altes Haus, steck die autonome Faust aus der Scheiße, die du baust. Gibt es viel zu wenig autonome, gibt's schon ewig. Questa è Autonome de Connexion Musical, e visto che Berlino senza gli autonomi non sarebbe Berlino. Wo die Lichter bald ausgehen, will am Morgen nicht aufstehen. Wie soll das mal aussehen? Will mich irgendwie auflehnen und nicht alles in Kauf nehmen. Ihr müsst davon ausgehen, dass ihr sonst für aufstehen. Denn die Sonne wird aufgehen und uns friedlich begrüßen. Und der stressige Beamte wird Papiere überprüfen. Kommentare reichen auf, Formulare nicht gebraucht. Geht's dir gut, bleibst du auf? So sieht's aus. Diverse Kontroverse, Verse, bleib hier auf der Ferse. Dem ist nicht abhängig von Aktien und von Börse. Wenn diese Spender wissen, dass sie flüchten, kranke Kinder züchten, materielle Süchte. Tragen keine Früchte. Yeah. Deshalb muss man umdenken, den Wagen umlenken. Internationalen Kämpfen Almut schenken. Um das Blatt zu wenden und die Böse zu verenden. Wie Idioten die Präsenten und dafür Nazi-Scheiß verwenden. Und dafür Nazi-Scheiß verwenden. Autonom wie Phantom. Die Proletenpassion. Repression als Repression. Fordert unsere Aggression. Autonom wie Phantom. Die Proletenpassion. Repression als Repression. Fordert unsere Aggression. Autonom wie Phantom. Keiner weiß, wo wir wohnen. Schwimmen gegen den Strom. Keiner kennt unsere Funktion. Autonom wie Phantom. Keiner kann uns führen. Kein Spion mit Mission. Notschaber Munition. Es geht nicht um Krawalle und es geht nicht um Randale. Es geht raus von all die Hippies. Es wirken Stocksandale, denn es geht uns um Freiheit, hey. Und Veränderung der Lage. Und wir sind bereit für Streit mit der verfickten Nazi-Plage. Wir sind uns nicht zu schade. Geschützte Barrikade. Liefern Springer die Skandale. Über linke Radikale. Wir nehmen nicht alles hin, sind aktiv und keine Ja-Sager. Attackieren die BVG, denn wir sind autonome Schwarzfahrer. Suchen keine Nachahmer, warten auf Ideen. Und übergehen ganz bequem, die uns im Wege stehen. Wir durchbrechen Grenzen und rufen auf zum Schutz. Konsequenzen, weil wir selbst auf Arbeit scheißen und Abwesenheit glänzen. Phantomas, gib Gas, es sind die Gassen auf Anas. Wir spucken hier wie Lamas, bis du dir die Lage klammerst. Wenn du jammerst und klammerst, die Augen verschließt, siehst du trotzdem MCs, in diesen Dunkeln verliebt. In Gedankengänge, unsere Wellenlänge, treib dich in die Enge, sondern löst die Zwänge. Ich käme meine Wohnung als verbotenes Material. Hip-Hop Guerrilleros, Konnexion Musical, sie, sie, sie. Berlino ha anche ispirato film e libri. Adesso parliamo un attimo di un film che è Christian F., preso dall'omonimo, cioè quasi omonimo romanzo I ragazzi della zona di Berlino, e ascoltiamo la colonna sonora di David Bowie con Heroes. Volevamo parlare di DJ Paul von Dyck. Lui è nato nell'est della Germania ed è cresciuto nella Berlino comunista, non potendo avere la possibilità di svago in club e discoteche dell'ovest di Berlino. Paul si divertiva a registrare le canzoni mandate in onda dalle stazioni radio dalla parte capitalista di Berlino. Oltre a registrarle amava metterle nelle feste che organizzava con gli amici. Nell'89, l'anno della caduta del muro di Berlino, la club culture invase tutta la città. Nei club padroneggiava la techno. E a Paul piaceva molto, ma spesso non lo soddisfaceva totalmente, mancava sempre qualcosa in quel suono. Iniziò così la sua ricerca di un suono che gli piacesse, che lo soddisfacesse appieno. Una ricerca che non l'ha mai lasciato. Nel 91 infatti ebbe il suo debutto nel club Tresor, dove suonò per la prima volta col suo remix. E nel 93 balzò alla testa delle classifiche con Love Stimulation. Adesso vi facciamo sentire di Paul von Dyck, For an Angel. Mamatrona volge quasi al termine e quindi vi salutiamo con Tschüss, un saluto tedesco. Vi diciamo che la prossima puntata sarà sul carnevale, l'aspettiamo con tanto entusiasmo. Vi salutiamo tutti. Vi salutiamo con gli Stereo Total, Amore a Troyes, un duo berlinese composto da un tedesco e una francese che però si scambiano le lingue, diciamo, rispettivamente. Ricordiamo stasera la cena a sostegno delle infrastrutture tecnologiche di Radio Onda Rossa organizzata dal Tech Block a Strike in via Partini alle 9. E per salutarci quindi anche con un occhio di riguardo ai nerd, ci sentiamo Ich Human Computer dei Daikind, che diciamo che sottolinea quanti problemi si possono avere con un Apple dopo essere stati felicemente insieme. Computer verrückt, alles ist weg, Festplatte voll, falsche Version, Update verpasst, kein Handbuch dabei, RAM zu klein, Sanduhr, Sanduhr, Prozessor zu langsam, Tracks runtergeladen, Virus eingefangen, Netzteil vergessen, Akku ist leer, druck mir das mal aus, Düse verstopft, Patronen ist leer, Kabel zu kurz, schick mir das mal rüber, ist nicht angekommen, falsche Version, Update nicht verfügbar, viereckige Augen, Bildschirm ist schwarz, bei Google gesehen. Auktion verpasst. Software gezogen, ist schon wieder alt. Ich hab mein Computer. Wir waren mal ein Team. Plastik mit dem Apfel. Ich werd dich nie verstehen. Passwort vergessen, Gerät nicht gefunden, kein Steckplatz mehr, Wackelkontakt, CD nicht beschriftet, Fehler unbekannt, Seite lädt nicht hoch, Kreditkarte gehackt, alles weg, Plug und Play, versteh ich nicht, Drag und Drop, versteh ich auch nicht, Read Not Error, Sanduhr, Sanduhr, kein Dongle dabei, keine Flatrate, Posteingang voll, Trojaner eingefangen, Software im Arsch, Kontakte gelöscht, PIN-Code vergessen, Überweisung nicht möglich, Mauszeiger, bewegt sich nicht, Datenüberschuss, kein Wireless LAN, E-Mail nicht beantwortet, Spam beantwortet, zu wenig Megabyte, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr, Sanduhr. Oh. Ich hab mein Computer. Wir waren mal ein Team. Plastik mit dem Apfel. Ich werd dich nie verstehen. Ich hab mein Computer. Plastik mit dem Apfel, ich werd dich nie verstehen. Thank you.